Europa 24. Sono 1000 i giornalisti attesi per seguire la notte elettorale al Parlamento europeo, dove verranno diffusi prima le proiezioni basate sugli exit poll, poi i risultati nazionali e le previsioni sulla suddivisione dei 751 seggi della prossima legislatura. Alla notte elettorale parteciperà la maggior parte dei candidati alla presidenza della Commissione UE e naturalmente i rappresentanti dei partiti europei. Uno spreco che si aggira attorno a 90 milioni di tonnellate ogni anno in Europa, uno spreco che potrebbe essere evitato grazie all'utilizzo di un semplice accorgimento. E ciò di cui si è discusso ieri nella Commissione Cibo e Agricoltura in Europa, naturalmente del Parlamento Europeo. Sentiamo Servizio. Da consumarsi preferibilmente entro. Non è una data di scadenza, eppure induce i consumatori a gettare tra i rifiuti cibo ancora commestibile. Secondo le stime del BEUC, l'Organizzazione Europea dei Consumatori, il cibo buttato via ogni anno si aggira attorno ai 90 milioni di tonnellate in tutta Europa. Come conferma la stessa Camille Perrin del BEUC. The miracle solution to food waste. It's addressing the issue very narrowly. Se una sola dicitura trasforma in spazzatura cibo in realtà ancora commestibile, l'idea più sensata è stata quella di pensare di togliere questa dicitura, in particolare da pasta, riso, caffè e formaggio duro. Diversi stati membri, tra cui Olanda e Svezia, stanno spingendo proprio in questa direzione e cercano anche di portare avanti un progetto che possa ampliare l'elenco dei prodotti alimentari. Non è un caso che la questione venga sollevata ora. A capo dell'Organizzazione Europea dei Consumatori, che riunisce 40 leader di 30 paesi europei, c'è infatti uno svedese, il signor Brinkman. Per la Coldiretti invece l'eliminazione della data di scadenza è un modo per tagliare anche sulla qualità del cibo in vendita in Europa, che con il passare del tempo, sostiene l'associazione di categoria italiana, perde le proprie caratteristiche nutrizionali. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ultime battute per il premio annuale all'inventore europeo dell'anno. The European Patent Office annuncia che il professor Luigi Cassara è entrato nella rosa dei 15 finalisti che concorreranno in 12 paesi all'assegnazione del premio appunto di inventore europeo edizione 2014. È l'unico italiano candidato grazie a un'invenzione realizzata all'epoca in cui era direttore del Dipartimento di Ricerca e Sviluppo di Italcementi, cioè il cemento mangia smog, che verrà utilizzato tra l'altro per costruire Palazzo Italia di Expo 2015. Allora, chiunque volesse esprimere la sua preferenza ritrova sul nostro sito tutti i dettagli per votare. Ora lo sentiamo al microfono di Anna Marino. Si tratta di un cemento che contiene degli elementi attivi, il TX Active, che è in grado di ridurre l'inquinamento atmosferico e mantenere le superfici dove viene inserito del colore che avevano inizialmente. A quando risale? Al 1996. Allora in che cosa è stato applicato? E la prima applicazione è la Chiesa della Misericordia a Roma e inoltre una costruzione fatta a Chambéry, in Francia. Lei dove lavorava quando l'ha inventato? Quando l'ho inventato lavoravo in Italcementi, che poi ha insistito nel portare avanti questo progetto. Che cosa avete verificato? Viene chiamato il cemento mangia smog. Avete verificato che riduce l'assorbimento dello smog? Come? Taglia gli inquinanti atmosferici e chiaramente indirettamente riduce lo smog. Inquilini che vivevano dove l'abbiamo applicato affermavano che si respirava meglio. Lei adesso concorre al premio per l'inventore europeo e il cemento mangia smog, così viene chiamato, verrà utilizzato anche per costruire il Palazzo Italia all'interno del padiglione Italia di Expo 2015. Esattamente. Secondo lei appunto questo premio in che cosa consiste e che cosa va a evidenziare della sua invenzione? Tanto un enorme sforzo di ricerca fatto negli tarcementi. Evidenzia che malgrado la spesa di ricerca sia dell'Italia sia modesta, ci sono delle possibilità per i ricercatori di ottenere dei successi. Investire di più in ricerca è l'unica soluzione che noi abbiamo per risolvere il problema della crisi italiana, e la ricerca e lo sviluppo. Vi ricordo che abbiamo tempo fino al 10 di giugno per votare l'invenzione europea dell'anno. Sul sito trovate tutti i dettagli su quello di Radio 24, naturalmente radio24.it. E con questo è tutto per questa edizione di Europa 24. Ci risentiamo stasera per l'edizione serale. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.